Parigi, 4 settimane dopo. Il giorno più felice della mia vita incominciò come tanti altri giorni a Parigi. Dopo la colazione, presi il piccolo innaffiatoio verde e incominciai ad annacquare le due palme impolverate che Giulia ha portato con sé in due vasi dall'Italia e collocato nella sua stanza da pranzo. Giuseppe e Giulia sedevano ancora a tavola, l'uno di rimpetto all'altra. Giuseppe stava studiando una lettera e io udivo or sì or no quel che diceva. Vedi, Giulia, ha accettato il mio invito. Dio mio, non abbiamo niente di pronto. E chi pensi di invitare ancora con lui? Devo cercare di procurarmi dei polli novelli e per antipasto trote alla maionese. Certo, le trote in questo momento sono care come l'oro. Ah, avresti dovuto dirmelo in tempo, Giuseppe. Beh, non ero sicuro che avrebbe accettato il mio invito. In fin dei conti si trova a Parigi solo da un paio di giorni ed è tempestato di inviti. Tutti vogliono udire personalmente da lui che cosa è veramente successo a Vienna. Io uscii e andai a riempire di nuovo l'innaffiatoio. Le palme polverose succhiavano un mare d'acqua. Quando tornai, Giuseppe stava dicendo: gli ho scritto che il mio illustre amico direttore Barrà e mio fratello Napoleone mi hanno parlato così bene di lui e che io sarei felice di poterlo riverire in casa mia a un desinare modesto. Fragole al Madera come dessert, meditò Giulia ad alta voce. E lui ha accettato. Sai che cosa significa questo? Significa la presa di contatto col futuro ministro della guerra di Francia. Il preciso desiderio di Napoleone diventa realtà. Barrà non fa più mistero con nessuno che intende affidargli il ministero della guerra. Col vecchio Chéré, Napoleone fa quello che vuole, ma quello che ha in mente questo guascone noi non lo sappiamo. Giulia, il desinare deve essere scelto e chi invitiamo ancora con lui? Io presi la coppa con le prime rose che si trovava in mezzo alla tavola e la portai in cucina per rinnovare l'acqua. Quando tornai, Giuseppe stava appunto dicendo: ma un desinare intimo in famiglia è la miglior cosa. Così almeno Luciano ed io potremo parlare indisturbati con lui. Dunque, Giuseppina, Luciano e Cristina, tu e io. Il suo sguardo cadde su di me e naturalmente la piccola. Fatevi bella, questa sera sarete presentata al futuro ministro della guerra di Francia. Come sono noiosi per me questi desinari intimi di famiglia che Giuseppe suole dare continuamente in onore di qualche deputato, di un generale o di un ambasciatore. Desinari di famiglia che si offrono soltanto per scandagliare dei segreti politici di corridoio e per spedirli poi caldi caldi per mezzo di un corriere d'oltremare in interminabili epistole a Napoleone che è in viaggio per l'Egitto. Prima Giuseppina non voleva venire. E Giuseppe ha dovuto spiegarle chiaro e tondo quanto sia importante che ella si tenga buono questo illustre signore. Lei adesso si è comprata quella casa di campagna, la Malmaison, e voleva fare una gita laggiù con alcuni amici, organizzare un picnic. Ha ragione, con questo tempo così bello, dissi io, e guardai il cielo azzurro pallido della sera. Incominciavo a odiare questo sconosciuto ospite di riguardo. Di sotto si fermò una vettura e Giulia si precipitò fuori con un ultimo: purché tutto vada bene. Non avevo affatto voglia di scendere a salutare gli ospiti. Soltanto quando un gran vocio salì fino a me ed ebbi la sensazione che tutti fossero riuniti e che probabilmente Giulia aspettava solo me per invitare gli ospiti a tavola, mi riscossi. Oh, avrei potuto mettermi a letto e dichiarare che avevo mal di capo, pensai, ma l'idea mi venne che già ero di sotto con la mano sulla maniglia dell'uscio. Un momento dopo avrei dato non so che cosa per essermi davvero messa a letto col mal di capo. Lui era in piedi con la schiena rivolta verso la porta. Tuttavia lo riconobbi subito, una torre d'uomo in una uniforme turchina con delle massicce spalline dorate e una larga sciarpa dai colori della Repubblica. Gli altri, Giuseppe, Giulia e Luciano con la sua Cristina, stavano in semicerchio intorno a lui e facevano girare dei bicchieri con le mani. Non ho colpa se rimasi paralizzata sulla soglia, guardando fissamente, spaurita, quella schiena e quelle larghe spalle. Ma il semicerchio trovò che il mio contegno era strano. Giuseppe mi osservava di sopra le spalle del suo ospite. Gli altri seguirono il suo sguardo e finalmente anche l'uomo torre si accorse che qualche cosa di insolito succedeva alle sue spalle. Si interruppe, guardò dove guardavano gli altri e e si voltò. I suoi occhi si spalancarono per la sorpresa. Io quasi non potevo più respirare dal gran batticuore. «Desiree, vieni, ti stiamo aspettando», disse Giulia. Nello stesso momento Giuseppe mosse verso di me, prese il mio braccio e disse: «E questa è la sorellina di mia moglie, generale Bernadotte, la mia cognata Mademoiselle Desiree Clary». No, io non lo guardai. Tenni convulsamente gli occhi fissi su di uno dei suoi bottoni d'oro, sentii come in sogno che lui portava cortesemente la mia mano alle labbra e udii poi come da lontano la voce di Giuseppe: «Siamo stati interrotti, caro generale. Lei voleva dire dunque che... Oh, io temo d'aver dimenticato quello che stavo per dire». Tra mille avrei riconosciuta la sua voce dal ponte nero tra la pioggia, la voce dal fondo buio della carrozza, la voce davanti la porta della casa di Rue du Bac. La cena familiare e intima, per ragioni politiche, trascorse diversamente, oddio, molto diversamente da quel che si era immaginato Giuseppe. Secondo il piano prestabilito, il generale Bernadotte sedeva tra la padrona di casa e la moglie del generale Napoleone Bonaparte. Giuseppe aveva ceduto a Luciano il posto al fianco di Giuseppina per potersi accomodare giusto di rimpetto al generale Bernadotte e dirigere la conversazione con lui. Ma il generale Bernadotte sembrava distratto. Macchinalmente incominciò a darsi da fare col terribilmente costoso antipasto di trote. Giuseppe dovette accennare due volte a bere con lui prima che gli prendesse il suo bicchiere. Io potevo vedere come egli meditasse, tutto concentrato in se stesso. Cercava di ricordare esattamente ciò che gli avevano raccontato quella volta nel salotto della Tayenne. Napoleone aveva una fidanzata a Marsiglia, una ragazza giovane con una grossa dote. Suo fratello è sposato con la sorella di questa ragazza. Napoleone lascia in asso fidanzata e dote. Giuseppe dovette richiamarlo tre volte per ricordargli che tutti volevano toccare i bicchieri con l'ospite d'onore. In gran fretta levò il suo bicchiere, poi parve rammentarsi dei suoi doveri di capo della mensa. Di colpo si volse verso Giulia. «Vostra sorella abita da molto tempo a Parigi?» La domanda capitò così improvvisa che Giulia diede in un sussulto e non la intese bene. «Voi siete tutte e due di Marsiglia, non è vero? Voglio dire... È molto tempo che vostra sorella abita a Parigi?» insistette. Giulia si era ripresa. «Oh no, soltanto un paio di mesi. È la prima volta che viene a Parigi e ci si trova molto bene, non è vero, Desiree?» «Parigi è una meravigliosa città», dichiarai io, impettita come una scolaretta. «Sì, quando non piove», disse lui. E i suoi occhi si fecero piccoli. «Oh, anche quando piove», intervenne con fervore Cristina, la figlia dell'oste di Saint-Maximin. «Parigi è una città di fiaba, io trovo». «Avete ragione, madame. Ci sono anche delle fiabe quando piove», disse Bernadotte con grande serietà. Giuseppe incominciava a inquietarsi. Non aveva adescato nella sua casa per iscritto e valendosi di tutte le arti della persuasione il futuro ministro della guerra perché si discutesse del tempo e della sua influenza sulle fiabe. «Ho ricevuto ieri una lettera da mio fratello Napoleone», disse gravemente, «ma parve che ciò non interessasse granché Bernadotte. Mio fratello scrive che il viaggio si svolge secondo i piani e che la flotta inglese, al comando di Nelson, finora non si è neppure fatta vedere». «Boh, allora vostro fratello ha più fortuna che senno», disse Bernadotte di buon umore e levò il bicchiere verso Giuseppe. «Alla salute del generale Bonaparte, io gli devo molta gratitudine». Giuseppe evidentemente non sapeva se dovesse offendersi o rallegrarsi. D'altra parte non v'era dubbio che Bernadotte si sentiva, per quanto al grado, pari a Napoleone. Questi certo aveva avuto in Italia un comando supremo indipendente, ma Bernadotte intanto era stato ambasciatore e sapeva anche lui, come sapevano tutti, che lo aspettava la carica di ministro della guerra. Il fattaccio successe ai Polli Novelli. Giuseppina, proprio lei, la moglie di Napoleone, fu quella che gli diede l'avvio. Già da molto tempo mi ero accorta che gli sguardi di lei scorrevano ora verso di me, ora verso il generale Bernadotte. Credo che nessuno come Giuseppina sappia avvertire le dolci vibrazioni e le occulte energie che possono sprigionarsi tra un uomo e una donna. Finora si era mantenuta alquanto taciturna. Quando Giulia aveva detto di me «è la prima volta che viene a Parigi», aveva inarcato le sue sopracciglia ridotte a due curve sottili e aveva guardato Bernadotte con grande interesse. Era probabile, assolutamente probabile, che si rammentasse, come anche Bernadotte, in quel pomeriggio era stato in casa della Tayenne e le si offriva ora una possibilità di sostituire agli argomenti politico-militari sui quali Giuseppe indirizzava la conversazione un tema per lei ben più seducente. Piegò un pochino da un lato la sua testolina ricciuta e infantile, ammiccò a Bernadotte e domandò: «Nei riguardi mondani deve esservi stata molto facile la vita come ambasciatore a Vienna. Dico questo perché siete scapolo, generale Bernadotte. Non vi è accaduto spesso di sentire la mancanza di una signora nella vostra ambasciata?» Bernadotte depose con energia forchetta e coltello. «E come? Non so dirvi, cara Giuseppina. Posso chiamarvi Giuseppina, come in quei giorni lontani in casa della vostra amica Tayenne? Non so dirvi dunque quanto io abbia patito a non essere sposato, ma...» E qui si rivolse a tutti i commensali: «Ma io vi domando, signore mie e signori, che cosa devo farci?» Nessuno capiva se parlasse per scherzo o sul serio. Tutti tacevano imbarazzati finché Giulia, cortesemente, ma con un senso di pena nella voce, osservò: «Non avete ancora trovato l'anima gemella, generale?» «Ma sì, madame! Sì che l'avevo trovata, solo che poi è semplicemente scomparsa. E adesso?» Si strinse in comico imbarazzo nelle spalle e mi guardò, e intanto rideva e gli si illuminava tutto il viso. «E adesso dovete andarla a cercare e chiedere la sua mano?» esclamò Cristina, che trovava questo discorso perfettamente normale e anzi quanto mai piacevole. Al suo paese, nell'osteria di Saint-Maximin, i giovanotti, tra un bicchiere di vino e l'altro, le avevano spesso e volentieri descritte le loro pene di cuore. «Avete ragione, madame», disse Bernadotte facendosi serio. «Chiederò la sua mano». Così dicendo, balzò in piedi, spinse indietro la sedia e guardò fisso Giuseppe. «Monsieur Giuseppe Bonaparte, ho l'onore di chiedere la mano di vostra cognata, Mademoiselle Désirée Clary». Poi si sedette tranquillamente e non staccò più gli occhi da Giuseppe. Silenzio di morte. Un orologio ticchettava e credo che si udisse battere anche il mio cuore. Disperata, io tenevo gli occhi fissi sulla tovaglia candida. «Non capisco bene, generale Bernadotte, ma parlate sul serio?» udii dire da Giuseppe. «Sul serio?» Nuovo silenzio di tomba. «Ma credo che dovrete dare tempo a Desirée di riflettere sulla vostra lusinghiera proposta», disse Giuseppe. «Le ho dato tempo, Monsieur Bonaparte. Ma se l'avete conosciuta appena adesso?» Questa era la voce di Giulia, tremante per l'agitazione. Io alzai la testa. «Vi sposerei volentieri, generale Bernadotte». Era la mia voce? Con un tonfo una sedia cadde riversa. Quelle facce incuriosite, stupefatte, insopportabili, insopportabili. Non so come uscii dalla stanza da pranzo, ma... Subito dopo ero di sopra, in camera mia, sul mio letto e piangevo. Ad un tratto la porta si aperse. Giulia entrò, mi strinse a sé e cercò di calmarmi. «Ma non devi mica sposarlo, cara! Non piangere, non piangere!» «Ma io devo piangere!» singhiozzai. «Non so che farci, ma sono così straordinariamente felice che devo piangere!» Sebbene mi fossi lavata la faccia con acqua fredda e mi fossi poi abbondantemente incipriata, Bernadotte disse subito, quando ricomparvi giù nella stanza di soggiorno: «Avete pianto di nuovo, Mademoiselle Désirée?» Era seduto accanto a Giuseppina su di un piccolo sofà, ma Giuseppina si levò prontamente, si sedette su di una sedia e disse: «Ora Désirée deve sedere accanto a Giambattista». Così mi sedetti accanto a lui e gli altri allora incominciarono a parlare tutti insieme con fervore per impedire che si diffondesse intorno un senso di imbarazzo. Giuseppe aveva portato nella stanza di soggiorno le bottiglie di champagne che non avevamo terminate di bere a tavola e Giulia incominciò a distribuire dei piattini. «Oh, ci siamo scordati del dessert», disse. Così venne la volta delle fragole al Madeira ed esse mi giovarono assai a superare quei terribili momenti. Poi Bernadotte, che non sembrava affatto imbarazzato e appariva invece di ottimo umore e raggiante, si volse cortesemente a Giulia e domandò: «Madame, non avete nulla in contrario che io inviti vostra sorella ad una piccola passeggiatina in carrozza?» Oh, nulla, generale. Naturalmente, e quando? Domani nel pomeriggio? No, direi subito. Ma è già buio, obiettò Giulia, contrariata. Non era davvero una cosa conveniente per una ragazza giovane andarsene di sera e tardi a passeggio in carrozza con un uomo. Io mi levai con energia. Soltanto una piccola passeggiata in carrozza, dissi. Torneremo presto. E scappai via tanto in fretta che Bernadotte non poté neppure congedarsi a dovere da tutti i presenti. La sua carrozza era ferma davanti alla casa. Era una vettura aperta e noi procedemmo prima tra il profumo dei tigli in fiore nel cupo azzurro della sera primaverile. Ma quando ci appressammo al centro della città, le luci di Parigi scintillavano di tanti splendori che noi non vedemmo più le stelle. Non avevamo detto ancora una sola parola. Quando fummo lungo la Senna, Bernadotte gridò qualche cosa al cocchiere. La carrozza si fermò presso un ponte. È il ponte di quella volta, disse Bernadotte, e noi scendemmo. E stretti l'uno all'altra, arrivammo alla metà del ponte, ci appoggiammo al parapetto e stemmo a guardare le luci di Parigi che danzavano nelle acque del fiume. Sono stato più volte a Rue du Bac e ho domandato di te nella casa in fondo al cortile, ma quella gente non mi ha mai voluto dire nulla. Io annuii. Sapevano che ero stata a Parigi di nascosto. Quando risalimmo in carrozza, egli posò il braccio intorno alle mie spalle. La mia testa arrivava giusto alle sue spalline. Tu mi dicesti allora che eri troppo piccola per me, disse lui. Sì? E in questo frattempo sono diventata ancora più piccola. Allora portavo ancora i tacchi alti, ma quelli adesso sono assolutamente fuori moda. Forse non fa nulla. Che cosa non fa nulla? Che io sia così piccola? No, proprio nulla. Anzi, perché anzi? Mi piace. Nel ritorno premetti la mia guancia alla sua spalla, ma le spalline mi graffiavano. Queste orribili guarnizioni dorate mi disturbano, mormorai offesa. Egli rise, sommesso, lo so, tu non puoi soffrire i generali. Quando rientrammo nella nostra stanza di soggiorno, tutti gli ospiti già se n'erano andati. Spero che ora vi vedremo spesso in casa nostra, generale, disse Giuseppe. Io incominciai. Tutti i giorni, non è vero? Mi interruppi. Poi, per la prima volta, dissi: Non è vero, Giambattista? Abbiamo deciso di sposarci molto presto, ci approvate? Disse Bernadotte a Giuseppe, sebbene fra noi non si fosse affatto parlato delle nozze. Io vorrei che ci sposassimo anche subito. Domani incomincerò a dar la caccia a una piccola casa graziosa e appena ne avrò trovata una che piaccia a Desirée e a me, ci sposeremo. Come una dolce, lontana melodia, mi giungeva un ricordo. Ho risparmiato da più anni una parte del mio stipendio, posso comprarmi una casetta per voi e per il bambino. Scriverò subito a mamma. Buonanotte, generale Bernadotte. Udì la voce di Giulia e Giuseppe. Buonanotte, caro cognato, buonanotte. Mio fratello Napoleone sarà quanto mai lieto di questa notizia. Appena Giuseppe restò solo con Giulia e con me, gli scappò detto. Non capisco tutta questa faccenda. Bernadotto non è l'uomo delle decisioni precipitose. Non è forse troppo vecchio per Desirée? Ha almeno 35 anni, pressappoco, giudico io, disse Giuseppe a Giulia e a me. Ditemi, Desirée, vi rendete conto che state per sposare uno dei più eminenti uomini della Repubblica? E il corredo? Esclamò improvvisamente Giulia. Se davvero Desirée deve sposarsi presto, dobbiamo pur pensare al corredo. Ma questo Bernadotte non deve poter dire che la cognata di un Bonaparte non ha un corredo perfetto, disse Giuseppe e ci guardò con occhio penetrante. Quanto tempo vi occorre per preparare ogni cosa? Oh, le compere si faranno presto, disse Giulia, ma i monogrammi bisogna ricamarli. Per la prima volta intervenni nell'agitato colloquio. Il corredo è pronto a Marsiglia. Basterà dare ordine che si spediscano le casse e i monogrammi li ho già ricamati da un pezzo. Sì, certo, disse Giulia e gli occhi le si fecero tondi dallo stupore. Desirée ha ragione. I monogrammi sono già ricamati. B è sempre B, sorrisi io. E mi avviai per uscire. Tutta questa faccenda mi sembra piuttosto strana, mormorò Giuseppe diffidente. Oh, purché sia felice, sussurrò Giulia. Io sono felice, buon Dio del cielo. Caro il mio Tiglio giù sulla strada, care le mie rose nel vaso azzurro, io sono tanto felice. Seconda parte. La marescialla Bernadotte. Chaillot, presso Parigi, autunno dell'anno sesto, 1798. Il 30 Termidoro dell'anno sesto della Repubblica, alle 7 di sera, nell'ufficio di stato civile di Chaillot, sobborgo di Parigi, ho sposato il generale Giambattista Bernadotte. I testimoni di mio marito erano il suo amico Antonio Morien, capitano di cavalleria, e il notaio di Chaillot, Monsieur Francesco de Grange. Io invece dovetti scegliere lo zio Somì, che per principio non manca mai a nessun matrimonio della famiglia, e naturalmente anche Giuseppe. All'ultimo momento comparve all'ufficio di stato civile anche Luciano, cosicché mi misi in marcia con tre testimoni. Dopo la cerimonia nuziale ci recammo in carrozza in Rue du Rocher, dove Giulia aveva allestito un grandioso banchetto. Tutto andò bene, ma era costato 3 notti insonni a Giulia. Per non offendere nessuno, Giuseppe aveva convocato tutti Bonaparte che si trovavano a Parigi e dintorni. Madame Letizia manifestò ripetutamente il proprio rincrescimento perché il suo fratellastro Fesch, che ha ripreso la carriera ecclesiastica, era impegnato. Mamma da principio voleva venire per le nozze da Genova, ma è spesso malaticcia, perciò il viaggio nella calura estiva sarebbe stato troppo faticoso per lei. Giambattista invece detesta le feste di famiglia e, poiché non ha parenti a Parigi, non ha condotto al banchetto altri che il suo vecchio camerata Morien. Così le mie nozze erano completamente sotto la stella dei Bonaparte, ai quali non bastava certo a far da contrappeso lo zio Somì con la sua provinciale bonomia. Già 2 giorni dopo che mi ero fidanzata con Giambattista, Giulia non si era ancora riavuta dallo sgomento, arrivò il generale con questa notizia. Ho trovato una casa che fa il caso nostro. Désirée, vieni subito a vederla. La nostra casetta si trova in Rue de la Lune à Chaillot, al numero 3. Al pian terreno abbiamo la cucina, una stanza da pranzo e un piccolo vano dove Giambattista ha collocato uno scrittoio ammonticchiato dei libri. Tutti i giorni arriva a casa trascinandosi dietro dei libri nuovi e questo stanzino in casa nostra si chiama lo studio. Al piano di sopra non c'è che una bella camera da letto e una cameretta molto più piccola. Nel solaio, Giambattista ha fatto ricavare 2 stanzette dove dormiranno Maria e Fernando, perché nel matrimonio io ho portato Maria e Giambattista Fernando. Speriamo che la tua Maria vada d'accordo col mio Fernando, disse Giambattista. E chi è il tuo Fernando? Domandai spaventata. Seppi allora che Fernando è di Pau, in Guascogna, il paese di Giambattista, che è andato a scuola con lui e che si sono arruolati insieme nell'esercito, ma mentre Giambattista ebbe sempre delle promozioni, Fernando durò molta fatica a non farsi cacciare dall'esercito perché è piccolo e molto grasso e se deve marciare gli fanno male i piedi. Tutte le volte che i tamburi suonano la carica, Fernando è preso da tremendi dolori di stomaco. Lui naturalmente non ne ha colpa e se ne dispiace assai. Con tutto ciò ha sempre voluto restare soldato per essere vicino a Giambattista. Sa lustrare con passione gli stivali ed è capace di far scomparire magicamente in un batter d'occhio le più ribelli macchie di grasso da una tunica militare. 2 anni fa Fernando è stato congedato con onore dall'esercito perché si potesse dedicare esclusivamente agli stivali, alle macchie di grasso e ai bisogni personali di Giambattista. Sono il cameriere privato del mio generale e compagno di scuola Bernadotte, mi disse quando mi fu presentato. Fernando e Maria incominciarono subito a litigare. Maria dice che Fernando ruba dalla dispensa, mentre Fernando accusa Maria di essersi impossessata delle sue spazzole da stivali. Ne ha 24. E della biancheria personale del suo generale, che la voleva lavare senza informarlo. Quando vidi la prima volta la nostra casetta, dissi a Giambattista: Devo scrivere a Stefano che provveda a farmi pagare subito la mia dote. Giambattista arricciò il naso, pieno di disprezzo. Dimmi, per chi mi hai preso? Credi forse che voglia metter su casa con i quattrini della mia fidanzata? Oh, ma anche Giuseppe con la dote di Giulia, incominciai. Ti prego di non paragonarmi ai Bonaparte, disse seccamente. Poi mi cinse le spalle col braccio e mi scrollò ridendo. Ragazzina, ragazzina mia, oggi Bernadotte non può comprarti che una casa di bambola a Chaillot, ma se ti venisse voglia di avere un castello, ebbene. Io urlai addirittura: Per l'amor del cielo, questo no! Promettimi che non abiteremo mai in un castello, vero? Lui mi fissò. Lentamente si spense il sorriso sul suo volto. Noi siamo l'uno dell'altra, Desiree, disse. A Vienna ho abitato in un palazzo barocco. Domani invece potrei essere mandato a un fronte di guerra e dovrei forse accamparmi a ciel sereno chissà dove. E posdomani il mio quartier generale potrebbe trovarsi in un castello reale e ti pregherei allora di raggiungermi. Forse ti rifiuteresti? Saremo tanto felici qui, mormorai. Rifiuteresti? Insistette. Mi strinse contro di lui. Già mi sono abituata a farmi graffiare la faccia dalle sue spalline dorate. Non rifiuterei, gli dissi, ma non sarei felice. Dopo la cerimonia nuziale vi fu il banchetto in casa di Giulia, dove io mi annoiai immensamente. Tra un discorso agli sposi che lo zio Somiscio rinò sudando e un fiammeggiante appello dell'oratore Luciano Bonaparte, il quale augurò ogni bene ai due figli della rivoluzione, alludeva con ciò a me e a Giambattista, si parlò quasi esclusivamente della spedizione di Napoleone in Egitto. Giuseppe si era messo in testa di convincere il povero Giambattista, che di questo argomento ne ha già fin sopra i capelli, che la conquista dell'Egitto è una nuova prova del genio di Napoleone. E Luciano, che nel gesto di Napoleone vede soltanto la diffusione dei diritti dell'uomo in tutta la terra, gli dava manforte. Escludo che noi possiamo mantenerci a lungo in Egitto, e gli inglesi lo sanno e perciò non si imbarcano in una guerra coloniale contro di noi, dichiarò Giambattista. Ma Napoleone intanto ha già occupato Alessandria e il Cairo e ha vinto la battaglia delle piramidi, insinuò Giuseppe. Ciò non disturba molto gli inglesi. Ufficialmente l'Egitto si trova sotto il dominio turco. Gli inglesi considerano la presenza delle nostre truppe sul Nilo come un male passeggero e il nemico ha avuto nella battaglia delle piramidi 20.000 morti, noi neppure 50, intervenne Junot. Grandioso, mormorò Giuseppe. Giambattista alzò le spalle. Grandioso? Il glorioso esercito di Francia, guidato dal suo geniale generale Bonaparte, ha massacrato con la sua moderna artiglieria pesante 20.000 africani seminudi che neppure avevano le scarpe ai piedi. Per la verità, bisogna dire, una grandiosa vittoria del cannone sulla lancia e sulla freccia. Luciano aprì la bocca per replicare e rifletté. I suoi occhi azzurri infantili scintillarono, si oscurarono. Massacrati nel nome dei diritti dell'uomo, disse tristemente. Il fine giustifica i mezzi. Napoleone andrà più oltre e scaccerà gli inglesi dal Mediterraneo, proclamò Giuseppe. Gli inglesi non pensano neppure lontanamente a contrastarci per terra. E perché lo farebbero? Hanno la loro flotta e neppure voi contestereste che essa è di gran lunga superiore alla nostra. Quando essi avranno distrutto le navi che hanno trasportato in Egitto l'esercito di Napoleone, Giambattista si guardò intorno. Ma non vi accorgete di ciò che è in gioco? Un'armata francese può in ogni momento essere tagliata fuori dalla madrepatria. Allora vostro fratello, con i suoi reggimenti vittoriosi, si troverà chiuso nel deserto come in una trappola. La spedizione d'Egitto è un gioco d'azzardo insensato e la posta per la nostra patria è troppo alta. Sapevo che Giuseppe e Junot avrebbero scritto quella notte stessa a Napoleone che mio marito lo aveva definito un giocatore d'azzardo. Quello che invece non sapevo, e di cui del resto nessun altro a Parigi aveva notizia, era il fatto che esattamente 16 giorni prima gli inglesi, al comando di un certo ammiraglio Nelson, avevano attaccato l'intera flotta francese nella baia di Aboukir e l'avevano praticamente distrutta, e che il generale Bonaparte cercava disperatamente di ristabilire il collegamento con la Francia e passeggiava avanti e indietro davanti a una tenda nel deserto e già si vedeva inghiottito con tutti i suoi soldati dalla sabbia infuocata. No, la sera delle mie nozze nessuno immaginava che ciò che Giambattista Bernadotte prevedeva con tanta esattezza già era avvenuto. Quando io di nascosto sbadigliai per la seconda volta, il che non si addice ad una sposa, ma era esattamente la prima volta in vita mia che mi maritavo e non sapevo esattamente come ci si debba comportare in tale occasione, Giambattista si alzò in piedi e disse tranquillo: «Si è fatto tardi, Desiree, credo che ormai dobbiamo andarcene a casa». Ecco, per la prima volta questo confidenziale «dobbiamo andarcene a casa». In fondo alla tavola le due ragazzine, Caroline e Ortensia, si diedero di nascosto dei colpi nei fianchi e ridacchiarono. Il mio amorevole zio Somì mi strizzò l'occhio in confidenza e mi accarezzò sulla guancia come se prendessi congedo da lui. «Non avere timore, piccola. Bernadotte non ti mangerà».